di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Express our grief and condolences to the families of two hostages. One American, Dr. Warren Weinstein, and an Italian, Giovanni Laporto, who were tragically killed. Siamo stati ufficialmente informati che Laporto era dentro a quel compound ieri. Vorrei che fosse chiaro questo concetto, come il presidente Obama l'ha spiegato molto bene. Non si è trattato di un blitz, vale a dire, non è che gli Stati Uniti hanno cercato di liberare gli ostaggi e allora perché non vi hanno avvisato? Si è trattato di un intervento di cui tempo dopo si è capito che non aveva colpito soltanto dei terroristi di Al-Qaeda, ma altre due persone, e si è potuti risalire all'identità in modo definitivo delle due persone soltanto nella giornata di ieri. E via. Obama si scusa, c'è stato un raid a gennaio per colpire un leader di Al-Qaeda tra il Pakistan e l'Afghanistan, solo che in quella casa c'erano anche due cooperanti, un americano e il nostro italiano, Laporto. Il fratello di Laporto dice: Obama chiede scusa? Tante grazie, che devo rispondere? Così ovviamente i nostri rapporti con gli Stati Uniti tornano un po' in discussione, perché il tema ovviamente è: ma Renzi sapeva? Renzi è stato avvisato? La scorsa settimana era alla Casa Bianca, con Obama. Gliel'ha detto? Non gliel'ha detto? I giornali dicono che in realtà gliel'ha detto già mercoledì, due giorni fa, al telefono, Chi lo sa, chi lo sa. Vabbè, questa è 24 mattino, sono le 6:32 minuti, ci si chiede anche perché tre mesi, il raid di gennaio e adesso viene divulgato solo ora, dicono gli americani, perché sono stati recuperati i resti delle persone uccise, è stato fatto il DNA, quindi questione di tempo, ma anche solo andare a recuperare i resti delle persone uccise lì in una zona tribale impenetrabile, non è che si arriva tranquillamente con le strade. Coinvolgere agenti locali, spie, insomma, e quindi la vicenda però è su tutte le prime pagine dei giornali, cari ascoltatori, in questa giornata di venerdì 24 aprile alle 6:33 minuti. È venerdì Peter Pescapè, è venerdì Lorenzo Nespoli, forza, dai, lo schema Allegri ci vuole, dai. Mamma mia, lo schema Allegri. A proposito, Mario Dinolfi, ciao Mario, come stai? Buongiorno. Come va? Tutto bene? Benissimo, c'era una musichetta da Champions. Ecco, ecco. Guarda che domani forse siamo pure campioni d'Italia, oltretutto. Ah, domani? Domani? Se la Roma e la Lazio non fanno... Abbiamo vinto. Cosa che non è lontanissima, comunque mancano 6 punti. Vabbè. A voi 30 per raggiungerci, ma va bene lo stesso. 30? Ma 30, sei impazzito? 30. Ma quale 30? Tu hai dei problemi in matematica, secondo me. Senti che bello però, eh? Hai dei problemi in matematica, eh? Vuoi cantare con me? No, ti ringrazio, non conosco le parole. No, tu? No, sai che no. Vabbè, il direttore della Croce Quotidiano, adesso anche un po' timoroso, perché finalmente nelle semifinali incontrerete una squadra di calcio, non un baraccone del Circo Barnum. Mario Adinolfi, insieme a te c'è la nostra Lia Celi, nostra perché... Lia, buongiorno. Buongiorno, diciamo che oggi lo schema Allegri è un po' difficile metterlo in pratica. Sì, lo so. Ma tu ami il calcio peraltro, Lia Celi, no? Non te ne frega ma niente. Ma ho una figlia, mi spiace per te, è più dalla parte di Meazza, diciamo così. È interista, vabbè. Ha ancora un'età in cui può guarire o... Non lo so, se l'adolescenza queste manifestazioni bufoli, del tifo interista, allora cose che... è nel pieno degli errori. Sai che a quell'età non gli si può dire niente. No, infatti, tu non dire niente, ma lei se ne rende racconto, Anna, con la maggiore età che sbaglia. Vabbè, allora siamo con Lia Celi e Maria Adinolfi. Il Parlamento può aprire? Sì, può aprire? Eccolo qua. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, qui c'è poco da... Sì, ma dai, iniziamo con questa cosa di Lo Porto. Vogliamo capire, Marione, che dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fare la voce grossa? Non lo so, perché... Che puoi fare? Cioè, ovviamente non credo di sia nulla altro. Obama ha assunto la responsabilità dell'atto che fa di guerra agli Stati Uniti. Insomma, evidentemente non si può fare altro, non è il primo caso in cui una vittima civile innocente rimane vittima dei bombardamenti dei droni. L'unica è capire davvero se sapeva qualcosa, se ci hanno tenuto nascosto per 3 mesi questa vicenda, ecco, oppure... Ma se l'hanno rivelata oggi, insomma, non penso che cambiasse nulla se la rivelavano 2 mesi fa, probabilmente non avevano certezza e dunque non hanno parlato, perché sennò non c'è senso, insomma, sennò se stavi zitto non ce ne saremmo certo accorti, no? Sì, hanno usato uno di quei famosi droni, quando si dice esatto. i droni, ecco quelli sono i droni, sono quelli che bombardano, gli aerei senza pilota che poi bombardano. Muoiono anche molti loro ostaggi, non è il primo ostaggio americano peraltro che muore per intervento dei droni. È successa la stessa cosa con una ragazza in Giordania alcuni mesi fa, insomma, quindi sono ovviamente i cosiddetti effetti collaterali della lotta al terrorismo, non so. Effetti collaterali, capito, Lia? Sì, ma non è che se ci fosse stato un pilota a bordo dell'aereo avremmo risparmiato le vittime. La storia del Cermis ci ricorda che non è che i piloti americani siano infallibili. Comunque, ecco, vedi però la differenza. Adesso ci hanno chiesto scusa, è una bella differenza rispetto bella consolazione, come dice il figlio, infatti il fratello, tante grazie di fronte alle scuse, però d'altra parte cosa si fa in quelle situazioni? Il blitz non si può fare. Lì c'era praticamente il numero 2 di Al Qaeda della zona, l'hanno individuato, hanno buttato una bomba e peccato che non era da solo. Ma siccome si parla di droni anche per risolvere il problema degli scafisti, insomma, dei migranti di queste basi, ecco, pensiamo a cosa potrebbe succedere. Magari non becchiamo gli scafisti, becchiamo i migranti oppure degli innocenti. Sì, a proposito lì dei droni, qua la questione è l'Europa. Caro Mario Adinolfi, non dirmi anche tu che dici come re all'Europa. Due cose: primo, la ripartizione dei profughi non c'è; secondo, la Merkel ha detto va bene, aiutiamo, diamo soldi se l'Italia rispetta le regole di come vengono gestiti, e Cameron britannico ha detto sia chiaro, in Regno Unito nemmeno uno ne deve arrivare, nemmeno, hai capito, la solidale Europa. Caro Mario. Però ha dato le navi. Ha dato le navi, ha dato dei soldi. Ragazzi, che dobbiamo fare? Noi siamo lì, in quella frontiera, evidentemente se ci danno navi e soldi già in pezzo avanti rispetto a non avere né navi né soldi. Ma ho capito, ma l'Europa, si dice l'Europa, dovrebbero, no? L'Europa, dobbiamo ringraziare che ci danno due navi e 4 soldi. Io penso il primo passaggio sia necessariamente per avere i mezzi per poter fare il controllo costa in maniera adeguata e seria. Io penso che navi e soldi non siano irrilevanti in questo tipo di lavoro. In questo momento sono i mezzi insufficienti, i soldi insufficienti per fare una seria politica di controllo costa dell'Europa. guarda caso sono le coste nostre, a parte Malta, diciamo, insomma, sì. E se no mandiamo lì a Cieli, mandiamo Gianni Morandi, mandiamo, ma l'avete vista questa cosa? Ma adesso Gianni Morandi l'abbiamo chiamata anche noi, ma non voleva intervenire, l'abbiamo invitato, ma ha declinato. Però Gianni Morandi ve lo faccio sentire, non come performance canora, è intervenuto ancora perché Salvini si è arrabbiato, se li porti a casa sua, ma si dicono sempre queste frasi, se li porti a casa sua, sentite Morandi. Io credo che dobbiamo guardare con attenzione e ricordarci che tanti anni fa anche gli italiani andavano a cercare lavoro all'estero. Io credo che tutte queste persone non vengano qui solo per fare una gita, vengono qui perché cercano lavoro, cercano un futuro migliore per i loro figli, e non è vero che sono tutti stupratori, sono tutti delinquenti, sono tutte persone da rimandare in giro. Cara Lia, Gianni Morandi pensa di sfidare così il popolo della rete, il popolo della rete. Ma purtroppo la citazione musicale è quella giusta, perché considerata la massa di migranti e la brutta fine che fanno purtroppo in fondo al mare, uno su mille ce la fa, eppure sono tantissimi e mettono a durissima prova la nostra capacità. Sì, ma tu che ne pensi? Tu che vivi nella rete, tu che scrivi su Facebook, tu che, no, di questa la rete, o comunque gli insulti, portali a casa tua, accoppati, ammazzati, schifoso, razzista, vergogna, di tutto gli hanno detto, eh? Ma guarda, la rete mette in luce gli aspetti degli social network più che social, perché mettono proprio in mostra la cattiveria, che magari se tu puoi firmare se dovessi firmare un tweet col tuo nome non lo faresti mai, poi se ci si vede faccia a faccia tutte queste cose. Scompare subito, certo, dietro a casa sua, dietro i ditini. Quante te ne dicono a te, Mario Adinolfi, dietro i ditini? Io ho contato una circa 1400 insulti al giorno. Solo? Vari social. No, ascoltatore, si può fare di più, si può fare di meglio. Solo 1400 insulti. E ma, quindi... ma non è che voi, non è che bisogna farci un po' caldo. No. Se non sai, è meglio non starci. Gianni Morandi. Gianni Morandi ha avuto un sussulto di popolarità grazie alla rete, perché sulla sua pagina Facebook è cliccatissimo, e poi ha il suo prezzo da pagare. Ho capito, ma è diventata famosissima perché lo insultano da mattina a sera. Non è vero. No. Gianni Morandi ha questa pagina Facebook in cui fa praticamente una cronistoria minuto per minuto della sua vita, con foto e commenti così candidi, morandiani. Mamma mia, che noia! Cioè, non paga qualcuno per farglielo. No, è una sua installazione di arte contemporanea, che è una pagina Facebook, infatti, ecco. Un po' così trasognata, però appunto una popolarità che si paga, anche perché poi quando fai qualcosa che non piace, tutta questa popolarità si trasforma in odio. Ma tu, Marione, che già nei panni di Gianni Morandi, quindi ci sei quotidianamente. Esatto. Che dici? Va bene così, chi se ne frega? Cioè, uno ci può dire di tutto. È questo, la rete, grazie al meccanismo dell'anonimato. Quella è fondamentale, cioè, gli insulti non ti arrivano mai da nome e cognome, ti arrivano insulti da profili fake, cioè da gente che si è mascherata dietro nickname improbabili, che pensa di essere intracciabile, e dunque dà libero sfogo rispetto a quello che è un pochino noto, e si sfoga come può, è un elemento di frustrazione che ti ricade addosso, ma non è che ci puoi, ripeto, mettere un argine dicendo cattivi, siete maleducati. Leggi, ignori prevalentemente, ovviamente, perché non ti metti a entrare in risonanza con questa roba, esci pazzo. Però neanche te ne lamenti, cioè lamentarsi del fatto che la rete è maleducata, sì, esce. Equivale a non capire cos'è la rete. La rete esce. È un'enorme radio radicale, microfono lì. Erano educati lì, no, facevano delle cose più turpi, appunto, più turpi. Dai l'anonimato e un microfono alla gente e vedi quello che succede. Figurati, ma vuoi dare in questo meccanismo. Alessandro, poi anche tu anche, è la signora che ti dice se fossi tua moglie quante te ne darei, quindi a me paghi il tuo prezzo. Mi sembra giusto. Allora, dalla Croce Quotidiano, contro il divorzio breve, contro, cos'è che il titolo di pagina 2? Potrei non dirlo, potrei farlo come quiz telefonando a Mariona Dinolfi, si potrebbe. Ti telefonano ancora i nostri amici? Sì, come no, non manca mai. Vogliamo... anche molti lettori della Croce sono molto interessati. Vogliamo rinverdire il numero di telefono oppure lo sanno tutti? Sì, no, per carità, 334 37 98 534, ma non dovete chiamare adesso perché il telefono è occupato. Sì. Pronto? Mariona Dinolfi, sì. Piccione di merda! Questa è la telefonata. Senti, ma chi è che ti aveva chiamato allora alle 6:20? Ce lo puoi dire, quel prete? Mamma mia, una cosa incredibile. Insomma, se sai che lì a Celi l'altro giorno l'abbiamo chiamato alle 6:30, era occupato. Dico, chi chiama? Cioè, dice, è intervenuto, ha detto no, è uno che mi ha chiamato per un convegno alle 6:20. Per ricordarmi che alle 10 ho un convegno, sì, alle 6:20. Ci mancherebbe che il prete lo chiamasse per insultarlo, no? Ed era un prete, un frate, non si capisce. Alle 7:10 cominceranno, insomma, sicuramente, sì, a dirmi, certo. Ma l'articolo di oggi, questo, quell'altro, comunque, il di pagina 5. Potreste scoprire qual è il titolo di pagina 2, è la domanda d'ingresso, qual è il titolo di pagina 2 della Croce Quotidiana, per poi discutere con Maria Dinolfi. Allora, però, questa cosa del divorzio dopo il traffico la voglio approfondire. Lui, l'uomo divorziato, Mario Dinolfi, che dice che il divorzio breve non va bene tra poco. La colazione dell'italiano, cappuccio, cornetto e traffico a volontà. 24 mattino. Caro Alessandro, volevo dirti che in Europa molta ma molta gente ha combattuto ed è morta per conquistare la propria libertà. Per cui, relativamente al problema degli sbarchi, le donne e i bambini andiamo pure a prenderli noi, mentre gli uomini rimangono a casa loro e lottino per conquistare la propria libertà. Il contadino di Terni, va bene, perché non chiama Massimo D'Alema, gli fa vedere una zappa da 7 kg, e vede un bacchetto di chili. Massimo D'Alema tiene la vigna là, la moglie tiene la vigna là, nella provincia di Terni, e quindi sono vicini, perché non fanno un po' di scuola così? Massimo D'Alema fa il professore di zappologia. Milan, digli a Salvini che è Grant, è Gross, Giulia e Pirla. Ciao Milan. Popolo di 24 mattina, popolo di Radio 24, vi invito ad aderire a una nuova petizione. Milan comincia alle 6, per ascoltarlo appena ci si sveglia. Il gesto è uguale a quello di ieri, con sonoro. Non va bene, Elia Celi, stavi già firmando la petizione? Guarda... è già un motivo per una causa di divorzio breve o lungo. Stavi già firmando la petizione per farmi entrare alle 6? Stai attenta, che guarda che ti controllo. Se girassi. No, ma puoi sempre chiamare il frate che sveglia. Esatto, ospite il frate, quando ci dirà chi è, magari era un cardinale, vai a sapere. Marione, non ce lo svela, non ce lo svela. Ma rispettiamo la riservatezza. Ma se dai il tuo cellulare in diretta, ma io la loro la rispetto, la mia no, la mia Ti sono arrivate chiamate nel frattempo? Qualcuno dico, come al solito, ovviamente brillano intelligenti. Pensano magari che durante il traffico tu metta giù il telefono. Esatto, che se metti giù il telefono è un disastro, poi non ti riusciamo più a richiamare. Ci poi inseriamo. Non parliamo di WhatsApp, di cose, di tutti gli mezzi gratuiti perché sono pretendenti questi due ascoltatori. Ma nel nuovo icone di WhatsApp c'è anche quella che si usa per dire ciccione di merda di noi. Esatto, c'è un'app così. Vabbè, allora, Marione, cosa c'è che non va nel divorzio breve? Cosa c'è che non va quando due non si amano più? Hai divorziato? No, io non ho divorziato. Quindi è già una cosa che mette me in condizioni di vantaggio. So di che si parla, diciamo. 15 anni fa io ho divorziato. Ero un ragazzino, ero molto giovane, ma insomma mi ricordo bene tutta la tragedia. L'idea è, ma perché bisogna farlo di corsa sto divorzio? Qual è la finalità? veramente non serve. Perché bisogna soffrire a lungo, invece, è il contrario. Ma io penso che sottolineare con un elemento di, diciamo così, riflessione ampia, diciamo così, rispetto a una decisione che non è sempre banale. No, ma no, non è banale per niente. Quindi non litigo con mia moglie, posso attraversare un momento di crisi vera, seria, mi innamoro di un'altra, succedono casi, ok. Le cose vanno messe alla prova del tempo, perché il tempo ti fa ragionare. Ma se uno, se il tempo ti fa ragionare, torni insieme. Insieme dopo che divorziate, ricominci. Diciamo. Ah, ho capito. L'idea è, ma perché, qual è la, allora, il Parlamento, la 17ª legislatura, non ha legiferato in termini di iniziativa parlamentare su niente. Questa è la prima legge approvata dal 17esimo Parlamento repubblicano. La priorità paese è il divorzio breve. La priorità di chi? È la prima questione che si deve occupare il parlamentare. Hai detto la priorità di questo cazzo di paese. È questo davvero la più rilevante, ma è dieci anni. Ma è 10 anni che se ne parla lì, accendi. Di qualcosa tu, che sei una mamma di 4 figli. Totalmente il matrimonio è una cosa seria. Ma certo che seria, ma che vuol dire? Ma un matrimonio può finire, succede. È più complicato uscire dal rapporto con la Wind che dal matrimonio. Ma dai, ma è una cosa incredibile. Vabbè. Questo non è male, questo non è male come esempio. È più facile rompere un contratto con la Wind. È più difficile rompere il contratto con la Wind. Salutiamo gli amici della Wind. Che ormai il matrimonio ci si lascia così. Lì c'è banalizzarlo così il matrimonio. Ma chi lo banalizza? Lia, intervieni, dagli un colpo sulle ginocchia. Il problema è che non si può rimanere col vecchio gestore se ti fa soffrire, non è efficiente. Non conviene più, insomma, se vogliamo rimanere, c'è anche un'altra cosa. Allora, è bello ripensarci, è giusto, ma è bello se te lo dice l'amico, la mamma, la socia. Se te lo dice lo Stato, che non è sicuramente un modello di riflessione di moralità, è un'altra cosa. Terzo punto: se fra tutte le cose su cui litigano tutte le parti politiche sono riuscite a trovare un accordo solo sul divorzio breve, vuol dire che è una cosa su cui non si può discutere, cioè vuol dire una cosa che non serve a niente. Mario, li conoscerai anche tu le coppie snervate da anni di attesa che non vedono l'ora? Le avrai conosciute anche tu, amici? Un sacco di coppie separate che alla fine, in un lungo periodo di separazione, alla fine fanno anche due conti e dicono: sai che c'è, adesso si è stemperato il casino che succede e ti porta alla separazione. E ci pensano prima di divorziare. Se gli dai 6 mesi di tempo, 6 mesi sono il tempo del bollore. Adesso tu dimmi la verità, tu conosci persone che si sono separate e poi hanno ripensato e si sono rimesse insieme? Separate e non divorziate. Ma certo, perché magari costa un'infinità. Le persone si sono separate e non hanno divorziato. Ora, se tu quella decisione gliela permetti di fare nella temperie del casino, quella cosa avviene immediatamente e non è un bene, non è una cosa bella. Non è bella, cioè, non è una cosa bella. Lia, tu dall'altro del tuo matrimonio con 4 figli, Lia, cosa ci dici? Non so, sei sposata. Il matrimonio è pieno di momenti di casini, ragazzi. Ma certo. Ma è chiaro. No, tipo avere un adolescente interista, Lia Celi, dici, dai. No, io sono assolutamente pro divorzio breve, se non altro perché negli altri paesi i tempi del divorzio sono sicuramente più snelli che da noi e non è che le famiglie si sfascino, anzi il matrimonio ci si sposa anche più che da noi. Quindi se non ha fatto saltare l'assetto sociale in altri paesi, non vedo perché dovrebbe farlo anche da noi. Ma infatti io non capisco questo accanimento. Ma facciamolo Marione. Brevissimo allora, facciamola con SMS. C'era il divorzio lampo, che era la grande riforma che è stata saltata al Senato, no? Invece di farlo, facciamolo lampo. Scusa, se il concetto è questo, se il concetto è leggiamo più leggero e poi facile possibile. Lampo. Allora, perché 6 mesi? Facciamo 6 giorni, scusa. Ma guarda, è veramente incredibile che questa cosa sia diventata priorità dell'attività legislativa del Parlamento. Lo trovo sconcertante. Insomma, sconcertante. Perché qual è l'obiettivo di devastare quel poco che rimane all'istituto familiare? Niente, lì non ce la facciamo. Oh, Marione. Mi piace, un grande mito di progresso. Mi piace. Vabbè, comunque sulla Croce Quotidiana vi potrete informare su questo e altro. Sì, che abbiamo, forse l'unico giornale che ne parla con un minimo di senso critico, diciamo. Ecco. Beh, dai, anche Avvenire. Adesso non... No, Avvenire è molto a sinistra della Croce. Sì, Avvenire è un po' più progressista, della Croce Quotidiana, devo dire sì. Vabbè, dai, vi voglio salutare. Lia Celi, grazie. Maria Di Nolfi, direttore della Croce Quotidiano, grazie. In bocca al lupo per la semifinale. Chi vorresti incontrare, Marioni? Il Real Madrid per prendere solo 3 e non 5 dal Barcellona. Va bene, dai, grazie. Allora, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:18, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali nel giorno in cui la 103esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province si conclude. Con un nulla di fatto, ma c'è la 104esima, la prossima, e vediamo, potrebbe essere quella decisiva. Attendiamo. Noi parleremo della vicenda Lo Porto, avremo ospite Monica Luongo, giornalista da Islamabad in Pakistan, avremo ospite anche Giuliana Sgrena, ricordate, rimasta ferita il giorno dell'uccisione di Calipari dopo la liberazione in Iraq per un posto di blocco americano. Che ci dirà Giuliana Sgrena di questa vicenda? Lo scopriremo, così come parleremo ancora di immigrazione, l'accoglienza, si cercano i posti in Italia, molti non li vogliono, i migranti. Cameron, sapete che ha detto? Beh, tra poco lo vedremo sui giornali. Cameron, l'amico Cameron dell'amica Europa. Non un solo profugo nel Regno Unito, non un solo migrante. Non ne vogliamo neanche uno. Ecco, l'amica Europa. Andiamo a leggere i giornali, va. È venerdì 24 aprile. Intanto i titoli, Sole 24 Ore, tassi bot sotto zero, il mercato vende Bund. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. La vicenda Lo Porto è su molte prime pagine. Il Corriere della Sera, italiano ucciso, le scuse di Obama. Questo è il titolo, mentre per Repubblica, che ha la prima intervista al Presidente della Repubblica Mattarella sul 25 aprile, intervista fatta dal direttore Ezio Mauro, ha però un doppio titolo, anche dedicato a ucciso da un drone il volontario italiano rapito dall'Al-Qaeda, Obama, colpa mia. Per La Stampa, ucciso in un raid USA il cooperante italiano. Il giornale, Obama e forse Renzi hanno nascosto un morto italiano. Questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano, il drone di Obama spara e uccide un italiano. Mentre il Libero la mette sull'Europa, l'Unione Europea affonda il barchino di Renzi. Devo dire che sulla vicenda Lo Porto, il titolo che mi piace di più, l'ho anche twittato sul mio profilo Twitter, Alino Milan, è quello di Avvenire. Il mondo dei giusti, il mondo dei droni. Questo è il titolo di prima pagina. Il mondo dei giusti è per Avvenire. Dopo leggeremo magari l'editoriale del direttore Marco Tarquinio. Il mondo della cooperazione internazionale e dei cooperanti. In questo caso Lo Porto faceva parte di una ONG. Vabbè, questi alcuni titoli delle prime pagine. Voglio già iniziare a leggere qualche articolo, a cominciare da questa storia che è raccontata dal secolo XIX da Eloisa Moretti Clementi e riguarda un signore, il signor Angelo Tedde. Che cosa ha fatto questo signore di Chiavari? ha accompagnato un'amica in Svizzera per il suicidio assistito. Sapete che in quel paese è possibile questa pratica. Non è eutanasia, non è, si chiama così, suicidio assistito. Cioè una persona gravemente malata che decide di porre fine consapevolmente e individualmente alla propria vita viene accompagnata in questa fase di che si chiama così, suicidio assistito. Questa persona, Angelo Tedde, ha accompagnato un'amica di 85 anni, Oriella Cazzanello, in Svizzera. Ora rischia 12 anni di carcere. Fino a che punto, si chiede il Secolo, un portiere d'albergo può spingersi in nome dell'affetto per una donna molto più anziana? Saremmo disposti a rimanere accanto a una persona che sceglie di morire con due pasticche di pentobarbital? Ma la domanda a cui la procura di Vicenza dovrà rispondere è un'altra. Angelo Tedde, sardo ma residente a Chiavari, deve essere processato per istigazione o aiuto al suicidio dell'85enne Oriella Cazzanello? Le indagini si sono chiuse dopo 13 mesi e la procura di Vicenza sta valutando se chiedere l'archiviazione o rinvia giudizio per l'unico indagato, che dice: quando Oriella mi ha parlato delle intenzioni ho fatto il diavolo a quattro per farle cambiare idea, ma la mia determinazione era niente in confronto alla sua, e allora sì, l'ho accompagnata a Basilea per provarci a farla desistere fino all'ultimo. Se il processo si farà costituirà un precedente giuridico. Quest'uomo di 59 anni potrebbe essere inquisito per aver accompagnato un'amica a bordo della sua auto in un viaggio molto particolare da Arzignano, provincia di Vicenza, fino appunto a Basilea, dove c'è stata la pratica del suicidio assistito. Cosa succede, tra l'altro? Che c'è anche un testamento di mezzo, perché la signora ha intestato 500.000 euro a questo signore Angelo Tedde, ha dato anche 1 milione di euro in beneficenza, ha dato invece una pianta grassa in eredità al fratello e una zuccheriera alla cognata. Questa vicenda ha appunto animato i parenti a dire: guardate che in questa pratica vogliamo vederci chiaro. Sta di fatto che accompagna un'amica al suicidio assistito in Svizzera, ora rischia 12 anni, rischia il processo. Lo racconta il Secolo, decimo nono. Mentre prima abbiamo parlato anche con Maria Di Nolfi di divorzio breve, da qualche giorno c'è questa polemica anche perché è stato approvato il divorzio breve, che accelera i tempi della separazione quando un matrimonio finisce. Ora gli stessi autori della proposta, i due relatori del testo, Morani e D'Alessandro, tornano all'attacco e dopo il divorzio breve lanciano una proposta di legge bipartisan, sono uno del PD, la Morani, e uno del Forza Italia, D'Alessandro, per rendere legali i contratti prematrimoniali, qualcosa che c'è in vari paesi del mondo, in America soprattutto. Eccolo allora, dopo l'approvazione del divorzio breve, scrive il Messaggero, contratti prematrimoniali anche in Italia, ha presentato un altro disegno di legge, introduce gli accordi tra le coppie prima delle nozze, ma anche Il Giorno dedica una pagina a questo tema. Patti chiari, matrimonio lungo. Appena approvato il divorzio breve, i due relatori del testo, la Morani e D'Alessandro, tornano all'attacco, rilanciano il testo sugli accordi prematrimoniali già depositato a ottobre. Non si tratta di contrattualizzare sentimenti e ipotecare il futuro dei desideri, dicono, ma semplicemente essere talmente trasparenti e onesti da tutelare l'altro sino all'eventuale fine del matrimonio. È un atto d'amore. Due persone che fanno il grande passo possono donarsi la serietà e l'impegno per gestire nel miglior modo possibile non solo il legame ma anche la sua fine. Questo ha scritto la pidina Marani sul suo blog e racconta tutto ciò Sonia Oranges a pagina 15 del Messaggero, a raccontare appunto dell'arrivo dei contratti prematrimoniali. Ci sarà anche questo, potrebbe essere il prossimo punto di svolta. La cronaca ci racconta che Gianna Nannini, questo era uscito sui giornali qualche mese fa, è accusata di avere evaso il fisco. Il Giorno oggi racconta maxi evasione da 4 milioni, per la precisione 3 milioni 750 mila euro. La Nannini inizia una trattativa con l'Agenzia delle Entrate. È benedetta dalla Rovere, che ne racconta a pagina e ne scrive a pagina 15 del Giorno: vuole saldare il debito col fisco. Gianna Nannini, imputata a Milano per un'evasione a 3.750.000 euro, così la Stella del Rock ha avviato una trattativa con l'Agenzia delle Entrate per risarcire le tasse non pagate in Italia dalla sua società. Che cosa le contestano? Le contestano dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione dei redditi. Tutto finito sotto la lente della Procura di Milano, che ha contestato questa violazione. E ora Gianna Nannini pare voglia in qualche modo ricomporre questa vicenda. Chissà se si ricomporrà invece la vicenda del sottosegretario Francesca Barracciu, accusata di avere utilizzato, quando era in consiglio regionale della Sardegna, 78.000 euro di spese un po' così, sulle quali la procura vuole vederci chiaro. Pier Giorgio Pinna racconta su Repubblica, pagina 19, ora rischia nuovi guai perché il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio con l'accusa di peculato aggravato. L'accusa è sul presunto uso illecito di fondi destinati alle attività istituzionali di gruppi politici nel Consiglio regionale della Sardegna. È una contestazione di 78.000 euro di spese non giustificate, secondo la procura, e riguarda la fase nella quale l'attuale esponente del governo Renzi faceva parte del Consiglio regionale della Sardegna. Udienza fissata davanti al giudice per l'udienza preliminare il 24 giugno prossimo per capire se ci sarà rinvio a giudizio, se ci sarà il processo oppure no. Staremo a vedere. Ma eccoci qua con l'articolo che ci fa più pensare di questa giornata, l'articolo che ci fa tenere le mani ben salde e strette sul volante. E se siete in treno, mi raccomando, posizione d'atterraggio di emergenza. Io all'inizio ho un pochino sorriso quando ho visto il titolo, poi mi sono vergognato un pochino, perché in realtà è una vicenda molto molto seria, la questione del genocidio armeno. Sentite questa: Libero dalla Turchia, Caterina Mania ci racconta: l'ultima dei turchi, quello armeno, fu autogenocidio. Autogenocidio è una teoria che è stata portata avanti da uno storico turco, il professor Cevdet Kirpik. Secondo i nostri studi degli archivi ottomani, gli armeni indossarono gli abiti di curdi, circassi, laz, turchi e presero d'assalto i loro stessi villaggi, uccidendo il loro stesso popolo, con l'obiettivo di ottenere l'indipendenza. L'autogenocidio degli armeni. L'autogenocidio. Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Alessandro Milan, il Max Allegri per l'informazione. Dai, il Max Allegri dell'informazione, grande allenatore Max Allegri. Allora, cari ascoltatori, Barack Obama ieri alle 10 del mattino americano, quindi alle 4 del pomeriggio più o meno, si è presentato alla stampa e ha chiesto scusa, ha assunto la responsabilità per questo attacco che c'è stato a gennaio in Pakistan. Era un attacco per uccidere un leader di Al-Qaeda che è stato ucciso, ma in quel compound, in quella casa, c'erano anche due cooperanti, un americano e l'italiano Loporto, che era stato rapito 3 anni prima in Pakistan. È Guido Limpio, insieme a Paolo Valentino, che a pagina 2 del Corriere della Sera racconta come sia andata tutta questa vicenda. La precisa domanda: se lui e Renzi avessero discusso dei droni americani per la Libia venerdì scorso, Obama ha risposto secco ma abbassato gli occhi: no, non ne abbiamo parlato. Risposta tecnicamente corretta, ma forse non completa. È probabile, infatti, che una discussione sui Reaper, cioè i droni, ci fosse stata, ma di tutt'altra natura. Fonti americane suggeriscono che già in quell'occasione Obama potrebbe avere informato il premier del tragico errore, ufficialmente commesso in gennaio, quando un drone della CIA ha colpito un importante obiettivo jihadista, causando però allo stesso tempo la morte di due ostaggi, Loporto e Weinstein. Il dettaglio è interessante, ma non decisivo. E poi raccontano Olimpio e Valentino il raid. È stato individuato il compound nella regione di Dattachel, nel Waziristan settentrionale, fotografata l'area, il villaggio, la presenza di civili. Poi gli analisti della CIA, lontani migliaia di chilometri, hanno riesaminato ore e ore di video, vagliato ogni indizio, fino a convincersi che dentro quella palazzina ci fosse un qaedista, e hanno chiesto a Washington il via libera all'operazione. I missili hanno letteralmente incenerito il compound, un pericoloso capo terrorista è stato eliminato, sembrava, come dire, un successo dal punto di vista americano. In realtà poi si è scoperto che dentro c'erano anche Warren Weinstein, 73 anni, e Giovanni Loporto, il cooperante italiano, 39 anni. Obama chiede scusa. La famiglia, i familiari distrutti ovviamente di Loporto, di Giovanni Loporto, a cominciare dal fratello, dicono: Obama chiede scusa? E che dobbiamo dire? Tante grazie. Il tema politico diventa in Italia quando Renzi ha saputo. Renzi dice: abbiamo saputo ieri, o meglio la Repubblica dice che è stato informato ufficialmente mercoledì. E quando mercoledì, dopo aver recuperato i resti con molta difficoltà delle persone uccise, gli americani hanno fatto il test del DNA, insomma ci è voluto un po' di tempo, hanno verificato che c'erano anche i resti appunto dei due cooperanti, allora hanno telefonato mercoledì Obama a Renzi a comunicare questa cosa, e Renzi dice: abbiamo saputo mercoledì e siamo subito prima andati a proteggere la famiglia. In realtà il Corriere dice che non è escluso che Obama gliel'abbia detto venerdì scorso, quando Renzi era alla Camera. Per Repubblica Renzi è stato informato mercoledì. È polemica comunque, scrive Repubblica. Oggi su questa vicenda, come anticipato prima nei titoli, secondo me la posizione, l'editoriale migliore è quello di Avvenire. Il titolo di prima pagina è: il mondo dei giusti, il mondo dei droni. Marco Tarquinio è il direttore di Avvenire, il titolo è: grazie Giancarlo, grazie. Grazie, beh sì, si chiama Giancarlo, è per quelli che lo conoscevano e gli volevano bene. Giovanni Loporto è il nome di battesimo, quindi per questo il titolo è grazie Giancarlo. Grazie, grazie, grazie, scrive Tarquinio. Mentre poco a poco raccoglievamo brandelli di notizie sulla morte nascosta, violenta e atroce di Giovanni Loporto, Giancarlo per quelli che gli volevano bene, mentre dagli Stati Uniti e dall'Italia fioccavano dichiarazioni pensose o veementi sulla tragica, fallimentare conclusione dronica del rapimento qaedista, pensavamo questo: un grazie pieno di dolore, convinzione e luce. Giancarlo era uno di quelli, senza grande potere, ma generosi, colti, capaci e buoni, che ogni giorno, in pezzi difficili di mondo, fanno tenacemente la cosa giusta per costruire un altro mondo. Era uno di quelli che fanno dal basso, senza tante storie, con senso della storia della giustizia, ciò che troppi politici dei paesi più ricchi e in pace e troppi governanti dei paesi più poveri e in guerra sanno benissimo di dover fare, eppure mai si decidono a fare. E ieri sera a Bruxelles, tra i 28, abbiamo avuto l'ennesima prova che si sono incrinati appena due miopie e grevi egoismi. Giancarlo, invece, era uno di quelli che lavorano sul serio per smontare le fabbriche della disperazione, per fermare le catene di montaggio degli sradicamenti e delle fughe di milioni di uomini e donne dalle proprie patrie, per interrompere i rifornimenti umani alle fabbriche della morte. Ecco, in questo giorno di lutto e domande inquietanti, in queste ore di tardive scuse, di emozionanti condoglianze, di indignazioni impazienti, di inevitabili angosce, trattenute grida, sarebbe importante riuscire a sentire e capire tutti insieme, da Obama a Renzi, a ogni cittadino semplice, che il mondo reale e giusto è quello di Giancarlo e non quello dei jihadisti sanguinari e ciechi e dei droni letali e spesso altrettanti ciechi. Serve capirlo, dirlo e ripeterlo proprio oggi, in cui il trionfo della logica della guerra appare totale. Questa è la posizione del direttore di Avvenire Marco Tarquinio, che mi sento di sottoscrivere. Perché Tarquinio mette insieme anche la questione dei migranti, perché la questione dei migranti c'entra. Ecco, che cosa si è deciso in questo vertice europeo? Beh, se stiamo alle parole di Renzi, si è deciso molto, tantissimo, un grande trionfo, un grande successo. Se leggiamo i giornali, la si mette così. Certo, l'Unione Europea ha dato più fondi e quindi più soldi e più navi. Ma sentite per esempio Cameron, premier britannico, che metterà delle navi a disposizione. Non un solo profugo venga nel Regno Unito. Se prenderemo dei profughi o dei migranti, li porteremo in Italia. E infatti tutti i giornali fanno capire che non c'è stato accordo sulle quote profughi, cioè una sorta di redistribuzione anche nei paesi europei delle persone che arrivano. Cameron dice niente asilo. Alcuni titolano come il giorno quote profughi, Renzi sconfitto, l'accoglienza tocca l'Europa. Il giornale addirittura la mette così, o meglio Libero forse. Renzi si riscopre profugo in Europa. Per il fatto Renzi strappa qualche soldo ma l'Europa lo lascia solo. Vedete che dai titoli dei giornali questo grande successo non sembra esserci. Il Fatto Quotidiano addirittura va a intervistare telefonicamente uno dei trafficanti di uomini sull'altro tema, quello del bombardamento. Ecco, l'Europa cosa ha deciso? State tranquilli, nulla, hanno chiacchierato. È rimasta sospesa la questione del bombardamento dei barconi. Ebbene, Antonio Massari del Fatto Quotidiano riesce a procurarsi evidentemente il numero di Weddy Chambel e lo chiama, risponde in Libia, riesce poi a parlare, risposte abbastanza monosillabiche. Chi ci vuole bombardare, risponde questo Chambel, i libici vogliono mettere le mine in mare? Ma no, nessuna mina, stanno discutendo in Europa se bombardare i barconi. L'Italia vuole bombardarci? È un'idea, dice Antonio Massari al telefono a questo Chambel. Guardi, pensi che questi europei lo fanno per il bene dei rifugiati? Noi abbiamo già il pane, l'acqua, già la dividiamo con i nostri fratelli, noi siamo più solidali dell'Europa. Ma chi vuole bombardarci? L'Italia, la Francia? Chi? Sembra chiedere informazioni al giornalista del Fatto, questo trafficante di uomini. Volete bombardarci? Chiede per la ennesima volta. Ma se dovete ancora saldare un debito di 400 anni per 54 paesi africani? Comunque, se vogliono bombardarci, noi vi aspettiamo e siamo armati. Vabbè, e poi chiude la telefonata, l'intervista con questo trafficante di uomini, lo trovate a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Mentre Romano Prodi viene intervistato da Maurizio Molinari, a pagina 9 della Stampa, dice: contro gli sbarchi bisogna agire in Africa, serve un'intesa con la Libia e soprattutto servono aiuti più a sud, cioè con i paesi subsahariani. È una lunga intervista di una pagina, pagina 9 della Stampa, la trovate a Romano Prodi. Noi parleremo anche di questo, soprattutto di quello che è stato così titolato dai giornali, anche oggi Repubblica la mette giù così: ospitate a casa i profughi. Il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaglia, è quello che si è spinto più oltre a dire, per sistemare gli immigrati in arrivo dalla Sicilia, si è rivolto tra gli altri anche all'associazione dei piccoli proprietari, chiedendo di segnalare disponibilità di edifici, appartamenti, ambienti da adibire a sistemazione provvisoria delle persone. La situazione è Non facile, mettiamola così. Caro Mauro Meazza, buongiorno, come stai? Buongiorno, beh, apprezzo molto che la situazione non è facile e chiamiamo in causa colui che la risolve, Wolf. Risolvo, certo, come no. Tu hai un problema, io sono la soluzione, diceva quello del film. Senti, ti voglio dire, c'è una notizia, dici quella delle mani sul volante, la carta rossa. C'è una notizia un po' da facciamo gli scongiuri. Sì, cioè, c'è stato un aumentino dell'occupazione, un aumentino. Piccolo. Ecco, non so dove dovremmo tenere le mani a questo punto, però insomma, sul Sole 24 Ore lo spieghiamo. Anche naturalmente la notizia è pubblica anche su altri giornali, ma c'è un dettaglio che ti voglio dare: ci sono stati appunto circa 92.000, un po' più di 92.000 contratti, ma sono un po' saliti anche quelli a tempo indeterminato. Esatto, ecco, tutte le cifre sono sul sole. È la mia, il mio personale contributo alla notizia, mani, non so, insomma, dita incrociate. La notizia dita incrociate, invece, una buona notizia, sai che a Londra il prosecco va fortissimo, più dello champagne. Ma dai, e l'ho appreso leggendo il Sole 24 Ore di questa mattina, le pagine di Imprese e Territori, dove raccontiamo appunto che il prosecco sta veramente facendo un grosso successo, sta avendo un grosso successo a Londra. E poi, sempre sul Sole 24 Ore, visto che adesso ci sono questi tassi negativi, stai seguendo questa cosa, cioè praticamente tu investi su una cosa che ti ridà un po' meno di quello che hai investito. Sembra contraddittorio, ma in realtà ha il suo senso se non hai capito. Leggi sul Sole 24 Ore anche e soprattutto la bussola che mettiamo a pagina 3, cioè: ma che devo fare allora? Dove devo mettere i miei 2 urini? Ti chiederai di continuare a tenere in tasca come al solito? Non lo so, ma sappi che potresti comunque incrementarli con il queer o queer, non so qual è l'accento corretto. Sai cos'è il queer? No, ma tu so che me lo dirai. Te lo sei dimenticato, è il TFR in busta paga. Allora, si parte da maggio, maggio è il mese decisivo, lo spieghiamo oggi sulle pagine Norme e Tributi. Lo so che forse ti avevo detto che si partiva ad aprile, però invece si parte da maggio, ha precisato l'INPS e noi naturalmente lo accettiamo. E infine, last but not least, voglio informare tutti gli ascoltatori, ma soprattutto te, che settimana prossima sarò assente. Quindi ma non giustificato, mi potrai... giustificato, porta tutto. Ma questo tu non te lo devi chiedere, però, ti lascio i compiti per le mie vacanze. Cioè, il lunedì ricordati di leggere L'Esperto Risponde. Va bene, ma che contiene anche Risparmio e Famiglia e anche le pagine di Lavoro e Carriera di lunedì. Il martedì sai che c'è la pagina di Condominio, non te lo devo dire. Il mercoledì c'è sempre il Focus allegato, il tabloid allegato al Sole 24 Ore. Giovedì Casa 24 e il venerdì naturalmente, e anche oggi infatti ci sono le pagine, ma no, la moda, a parte il venerdì era il pesce, comunque insomma vabbè, lasciamo perdere. Sabato naturalmente lo sai che c'è, sabato come sempre lo daremo, sabato dormo, scusa, vabbè, e domenica le pagine culturali, mi raccomando, perché lunedì 4 maggio torno e ti interrogo. Perfetto, prof. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico. Alessandro Milan! Ma che cazzo è Alessandro Milan? Sì, vabbè, non male anche questa. Allora, bando alle ironie. Settimana prossima è una settimana importante, diciamo, sulla legge elettorale. L'Italicum che deve passare l'ultimo scoglio, quello alla Camera, per l'approvazione definitiva, e martedì approderà in aula. Si discute ora se il voto debba essere segreto o no. La partita dell'Italicum, racconta Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, pagina 15, ancora tutta da giocare, ma Renzi dà già per acquisito il risultato. Resta da capire se il governo riterrà necessario mettere la fiducia sui 3 articoli del provvedimento, facendo così cadere tutti gli emendamenti. Si stabilirà da martedì prossimo, quando arriverà alla Camera. Anche Repubblica racconta, pagina 18, la tentazione delle ultime ore è quella di fermare subito quelli che Renzi e i suoi considerano i possibili sabotatori, e quindi quelli che sono pronti a tutto pur di far saltare l'Italicum o cambiarlo con le modifiche che chiedono da mesi. Così alla notizia che Brunetta presenterà una pregiudiziale di costituzionalità sulla riforma elettorale, prende forma la contromossa che rimbalza da giorni: porre la questione di fiducia non solo sui 3 articoli della legge, ma anche sulle pregiudiziali di costituzionalità. Sarebbe una cosa inedita, sono tecnicismi parlamentari, ma si potrebbe consumare qui l'ennesima battaglia parlamentare. In tutto questo, mentre Berlusconi annuncia quella che sarà una rivoluzione del proprio partito, questa è la parola usata coi suoi collaboratori secondo Tommaso Labate a pagina 17 del Corriere della Sera, vorrà un ciclone questa è l'altra immagine usata, un ciclone per rivoluzionare il partito. E i nomi nuovi da sondare sono affidati a Maria Rosaria Rossi, senatrice, 43enne, commissario straordinario di Forza Italia, una delle strette rappresentanti del cosiddetto cerchio magico di Berlusconi. Beh, mentre Silvio Berlusconi dice questo, Marina Berlusconi, una delle figlie di Berlusconi, presidente di Mondadori, e Fininvest, attacca duramente Renzi in un colloquio con l'agenzia di stampa ANSA. Non fa sconti. Renzi è un uomo di parole più che di parola. E poi, parafrasando Mao Zedong, dice Marina Berlusconi: è vero che la politica non è un pranzo di gala, ma mi pare che Renzi abbia il vizietto di avvelenare un po' troppo spesso le portate. Insomma, da Marina Berlusconi fiducia zero nelle virtù taumaturgiche del premier, scrive il giornale con Stefano Zurro a pagina 11, ma tutti i giornali fanno notare proprio questa presa di distanza, questa critica molto molto netta di uno dei figli di Berlusconi, Marina Berlusconi, nei confronti del premier Renzi. A proposito di premier Renzi, a proposito di Palazzo Chigi, vi invito, se volete, anche a leggere qualche conto di Franco Bechis, che sul Libero va a spulciare nei bilanci di Palazzo Chigi e dunque della Presidenza del Consiglio, e viene messo in prima pagina del quotidiano Libero questo articolo: il premier sommerso da 800 cause legali. Troppe liti per il premier bullo contro Palazzo Chigi, 800 cause. La cifra non riguarda solo Renzi, ammette Libero, ma con lui sono aumentate le spese per arbitrati e risarcimenti. Nelle ultime tre sentenze Palazzo Chigi ha dovuto riconoscere oltre 500.000 euro di indennizzo a tre dirigenti che hanno fatto causa per vari motivi, e sono riepilogate queste storie su Libero, e che hanno vinto, e noi e Palazzo Chigi paghiamo. Vabbè, che dire. Siamo al momento della carta costa, e allora invito Lorenzo Nespoli a entrare in studio, perché siamo anche in diretta su Periscope, questo oggetto abbastanza misterioso ma che esiste, che c'è. Aspetta che giro la scaletta, sennò tutti copiano i numeri di cellulare dei nostri ospiti. Eccoci qua, siamo su Libero con un'intera pagina dal titolo esercizi d'amore, sono i consigli, con tanto di vignette per far capire, delle terapie di coppia, ultima spiaggia per i rapporti in crisi. Ma sentite qui, se siete in crisi nei vostri rapporti, cosa dovreste fare? Fare il gioco della sedia vuota. Cosa vuol dire la sedia vuota? Mettete una sedia vuota, si immagina che sulla sedia vuota ci sia il partner, a cui spiegate cose belle e brutte della coppia. E poi vi mettete voi sulla sedia vuota e vi immedesimate nell'altro o nell'altra. Oppure questo, occhi negli occhi, mettersi fronte, occhi occhi così. E fissarsi attaccati minuti e minuti, occhi negli occhi, per ripristinare la fiducia. Oppure mani nelle mani, mano nella mano, i rapporti, la fiducia. Libero. Ma chi se ne frega? BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Allora, abbiamo scoperto che Giovanni Loporto, cooperante italiano che è stato rapito 3 anni fa in Pakistan, è morto. È stato ucciso in un raid americano, un raid con un drone. Era stato identificato in Pakistan un obiettivo terroristico, hanno buttato una bomba, solo che in quella casa, oltre a questo terrorista di Al-Qaeda, c'era Giovanni Loporto, appunto, e anche un cooperante americano. Obama chiede scusa. I want to express our grief and condolences to the families of two hostages. One American, Dr. Warren Weinstein, and an Italian, Giovanni Loporto, who were tragically killed in a U.S. Giovanni Loporto, come dice Obama. Renzi risponde così. Ho molto apprezzato la totale trasparenza che gli Stati Uniti hanno avuto nel riconoscere le responsabilità di ciò che è avvenuto, le modalità con cui il presidente Obama ha comunicato quello che era avvenuto. In realtà in Italia poi ci sono le polemiche. Venerdì Renzi era da Obama. Gliel'ha detto o no venerdì di questa vicenda? Oppure, come scrive qualche giornale, gliel'ha detto mercoledì al telefono, cioè due giorni fa? Secondo il Corriere della Sera, in realtà, nello studio Ovale, Obama gliel'ha comunicato venerdì scorso. E allora perché per una settimana non si è saputo nulla? Intanto voglio salutare Monica Luongo da Islamabad in Pakistan, giornalista. Buongiorno Monica e ben ritrovata. Buongiorno. Allora, intanto, dove è avvenuto questo raid aereo e che cosa dicono i giornali lì in Pakistan? Allora, il raid è avvenuto in una zona ad alto tasso di combattimento, diciamo così, che è chiamata Nord Waziristan ed è al confine tra l'Afghanistan e le Fata, le province auto-amministrate del Pakistan. È quella considerata la zona dove c'è la massima concentrazione di terroristi, non solo di Al-Qaeda, ma altri gruppi molto forti in Pakistan, tra cui uno chiamato TTP, dove dal giugno scorso è in corso una operazione militare che ha portato all'evacuazione di più di 1,5 milioni di abitanti della zona, che vede congiunti forze militari pakistane e supporto americano. Bisogna capire qui, cioè, di questo raid che cosa si sapeva? Cioè, si è saputo solo quando ieri Obama ha raccontato tutto ciò al mondo, non si sapeva nulla prima? Allora, ieri io ho monitorato, diciamo, la notizia sui portali dei giornali perché era già sera ed era data, diciamo, in prima notizia, ma nessuno ci aveva ancora lavorato, erano di agenzia. Invece stamattina uno dei giornali locali riporta fonti ufficiose della polizia di Peshawar, che è la capitale del Khyber Pashtunkhwa, una delle regioni più calde, in cui pare che il raid la polizia conferma che il raid è stato quello del 15 gennaio, fatto specificamente per recuperare due rapiti pakistani, due rapiti, diciamo così, di eccellenza, perché si trattava del figlio dell'ex primo ministro pakistano, che si chiama Gilani, e che è stato rapito, io mi trovavo lì a Multan nel 2013 durante la campagna elettorale sotto il palco alla fine di un comizio. C'è il cellulare Monica che ci sta un pochino abbandonando, però volevano, da quanto ci hai raccontato, era un raid che ricordiamo è stato un bombardamento, un raid perché ci dicevi era per recuperare anche due rapiti pakistani. Però intanto che recuperiamo la linea, fatemi salutare Giuliana Sgrena. Buongiorno Giuliana Sgrena. Ricordiamo, rapita il 4 febbraio 2005 a Baghdad e liberata il 4 marzo. In quell'occasione fu ucciso Nicola Calipari e lei fu ferita insieme a un altro agente del SISMI. Le chiedo questo: vede analogie con le due vicende, la sua vicenda e questa di Loporto? Ci sono alcune analogie, ma grandi differenze, perché in questo caso assistiamo all'uso spregiudicato dei droni per evitare vittime tra chi attacca, e però spesso si colpisce nel mucchio e quindi ci sono molte vittime tra oltre agli obiettivi da colpire, quindi non ci sono armi intelligenti e anche i droni non sono armi intelligenti. Certo, quando vengono uccisi solo afghani o iracheni non fa notizia, ma in questo caso è molto grave. E finalmente abbiamo saputo che sono stati uccisi anche degli ostaggi italiani e americani. Lei che pensa quando Renzi dice la trasparenza di Obama? Cioè Obama, si sa, l'America colpisce anche così quando individua degli obiettivi terroristici, evidentemente hanno fatto un tragico errore, cioè non sapevano che c'erano in quel compound che è stato letteralmente incenerito anche due cooperanti, tra cui il nostro Giovanni Lo Porto, e Obama chiede scusa. Sì, questo diciamo, è un po' ipocrita. Io penso che tutti questi errori che stanno avvenendo negli ultimi anni sono dovuti al fatto che non esiste più, questo lo si fa anche per evitare delle vittime sul terreno, non esiste più un'intelligence adeguata che possa informare esattamente chi c'è dentro un compound, perché il drone non vede esattamente chi c'è dentro il compound, quindi va, colpisce tutti quanti. Sì. Invece in passato esisteva un'intelligence che agiva sul terreno, adesso invece spesso ci si fida delle informazioni che danno i locali, e i locali sono impegnati anche loro in una guerra e quindi danno informazioni che servono più a loro che non a chi le riceve. Ma scusi, secondo lei il governo italiano cosa dovrebbe fare? Cioè, al di là delle scuse, pretendere qualcosa in più? Tra l'altro credo che Obama abbia detto daremo dei risarcimenti alle famiglie. Sì, ma i risarcimenti purtroppo non servono a fare chiarezza, certo, su quello che è successo. Obama ha già detto che comunque delle informazioni verranno mantenute segrete. Allora non è possibile che ci siano dei buchi neri in situazioni, infatti, che sono avvenuti, che hanno coinvolto italiani. Adesso per ricordare brevemente la mia storia, anche nel caso dell'uccisione di Calipari poi non si è saputo niente, non si è saputo esattamente cosa è successo, non si è voluto dare informazioni, e quindi anche in questo caso probabilmente non sapremo esattamente cosa è successo, però di cose oscure ce ne sono molte. Intanto il fatto che si venga a sapere dopo 3 mesi, e se il governo italiano non è stato informato, certo è molto grave. Se è saputo dopo 3 mesi, se è saputo dopo 3 mesi, perché la mia lettura è che si è scoperto che c'erano due cooperanti, altrimenti non l'avremmo saputo mai. Cioè, se avessero ucciso solamente un terrorista ricercato, non è che avrebbero detto tanti dettagli. Naturalmente, questo avviene regolarmente, noi non sappiamo niente. Però è grave comunque che se loro, perché non penso che l'abbiano saputo l'altro ieri, che c'erano dei cooperanti dentro, e quindi Renzi è stato di recente da Obama, quindi se l'Italia viene considerata così, diciamo, un alleato subito, è gravissimo. Se invece Renzi lo sapeva, ovviamente lo doveva sapere almeno la famiglia, se non l'opinione pubblica. Le chiedo questo, sono passati 10 anni praticamente ad aprile, il 4 aprile erano 10 anni dalle vicende che hanno riguardato anche lei, ma lei sa che fine ha fatto Mario Lozano, cioè colui che sparò? Si sa qualcosa? Le ultime informazioni, perché all'inizio se ne è parlato, lui anche quando c'era il processo che poi è finito in nulla di fatto, rilasciava molte dichiarazioni e insomma era... si sapeva dove stava, e la sua si è saputo poi che lui ha fatto era tra chi faceva la guardia al Papa quando il Papa è stato negli Stati Uniti, il Papa precedente, e poi lui voleva riarruolarsi per andare in Afghanistan, non so se poi ci è andato o non c'è andato, perché mi dica, secondo lei continuava la sua, diciamo, sì, il suo impegno attività militare. Mi dica, a distanza da 10 anni, secondo lei qual è il punto più oscuro di tutta la vicenda che non è stato ancora chiarito? Ma tutto è ancora oscuro, perché non si è capito se per esempio, cioè è sicuro che è stato un agguato contro Calipari, perché tutte le informazioni erano a disposizione della direzione di chi stava seguendo. Cioè un agguato voluto, stava... secondo lei? Voluto? Sì, voluto. Ora, voluto come non si sa, perché non si sa se è stato dato un ordine al plotone o a Lozano, che era il mitragliere, di sparare, oppure se si sono create le condizioni perché questo avvenisse. Ma che interesse, perché, che interesse avrebbero avuto a eliminare Nicola Calipari? Probabilmente io non è una supposizione la mia, naturalmente sì. Non ho delle prove, ma c'erano dei contrasti con una parte dell'intelligence italiana, non con tutta l'intelligence italiana, perché all'interno dei servizi segreti italiani c'erano anche delle componenti filoamericane che quindi seguivano la linea americana fino in fondo, non pagare riscatti, eccetera, mentre quella di Calipari era un po' più indipendente, non è che fosse anti-americana, ma un po' più indipendente, che cercava di salvare i cittadini italiani che si trovavano in situazioni di quel tipo. Quindi questo può essere un motivo. Siccome la situazione è avvenuto tutto in un modo così strano, per esempio prima che Calipari venisse a recuperarmi in quel luogo in cui io ero, era arrivata a Calipari anche una telefonata che l'avrebbe dirottata in un altro luogo, sì, dove per fortuna non è andato, perché anche lì ci sarebbe stato un agguato. Insomma, lei dice che quindi il rischio di tanti punti oscuri a 10 anni rimangono. Però mi faccia concludere con un attimo con Monica Luongo, abbiamo ripristinato il collegamento. Monica, il Pakistan invece sapeva, perché ci ha detto che lavorano insieme pakistani e statunitensi, però anche in Pakistan questa notizia non è stata diffusa fino a ieri. No, la notizia non era stata diffusa. Se tu mi chiedi se Pakistan sapeva, io ti posso dare solo un'opinione personale. Sì. Secondo me sì. Secondo perché te sì. L'intelligence americana e i servizi segreti pakistani lavorano sotto braccio, assolutamente, diciamo, sono legatissimi, sono legati da contratti di carattere non solo strategico ma anche economico-finanziario, si proteggono a vicenda, lavorano su questo doppio fronte del gioco, diciamo, il Pakistan protegge l'America dall'Afghanistan, l'America protegge il Pakistan, è un po' delle parti. Sì. Sì, quindi c'è una collaborazione tra entrambi i paesi. E no, ma l'abbiamo capito anche questo, ma il cellulare da Islamabad ancora da qualche problema. Allora facciamo così, io intanto per il momento vi ringrazio, Monica Luongo da Islamabad in Pakistan e Giuliana Sgrena, giornalista e scrittrice, insomma, che poi ricordate è protagonista anche di questa vicenda, il rapimento a Baghdad che si concluse con l'uccisione di Nicola Calipari. Per quel che riguarda l'altro fronte che ancora oggi campeggia sulle prime pagine dei giornali, Renzi ha parlato di un grande successo per quel che è stato ieri il vertice europeo. In realtà, a mio modo di vedere, sì, ci hanno dato dei soldi, danno dei soldi e danno più navi l'Unione Europea per fronteggiare la situazione di immigrazione. Ma, per esempio, non c'è la redistribuzione per quote dei migranti. Tradotto, ce li teniamo tutti noi. E quindi chi se li tiene? Dove vanno? I prefetti chiedono ai comuni di trovare posti, alcuni comuni dicono non ci sentiamo da quell'orecchio. Dove vanno questi migranti? Tra poco. Allora, cari ascoltatori, Renzi dice che in Europa è stato un successone, grandi passi avanti per la concertazione, affrontare il tema delle migrazioni. In realtà la redistribuzione per quote delle persone che arrivano in Europa, ma zero di zero. Cameron ha detto non ne voglio uno nel Regno Unito, ha messo a disposizione delle navi ma ha detto sia chiaro, quelli che prendiamo a bordo li portiamo in Italia. Anche la Merkel ha detto va bene, diamo soldi eccetera, ma si gestiscano le questioni come prevedono le leggi, cioè se li tengano in Italia, il paese dove arrivano, trattato di Dublino. Allora, e dove vanno in Italia? Voglio salutare Claudio Palomba, che presiede il SIMPREF, l'Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi. Luca è un prefetto, anche lui. Prefetto Palomba, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dove vanno? Allora, voi siete alle prese, voi i prefetti d'Italia, a cercare di capire dove per eseguire gli ordini del Viminale, del Ministro dell'Interno, dove metterli questi migranti? C'è collaborazione in genere dei comuni, degli enti locali, degli amministratori? Ma guardi, fino a poco tempo fa c'è stata una buona rete che è stata assicurata soprattutto alle prefetture e ovviamente da tutto il mondo del volontariato e anche dagli enti locali. Non vorrei che l'imminenza, diciamo, delle elezioni regionali e di quelle amministrative cambiasse questa logica. Per esempio, mi scusi, presidente, mi ha colpito molto, forse i giornali l'hanno resa un po' troppo semplice, ma mi ha colpito l'idea così emessa sui giornali del prefetto di Venezia di dire anche ai privati, fare un appello, mettere a disposizione le case anche dei privati. Che vuol dire? Guardi, leggendo meglio, non ho sentito il diretto interessato, a lui parlava praticamente di un auspicio che gli enti, associazioni che comunque hanno disponibilità di strutture private, eventualmente da riattare, le mettessero a disposizione. Non penso che si riferisse a case, ovviamente non avendo sentito il diretto interessato, a un'interpretazione di questo tipo. Cioè anche noi sui territori e altri colleghi, laddove ci sono strutture private in questo senso, non singole famiglie, che possono essere messe a disposizione, ha chiesto una integrazione, quindi oltre che rivolgersi agli enti locali, alle associazioni eccetera, penso che abbia fatto un appello un po', leggevo appunto di una nota indirizzata a Confindustria, Confcommercio eccetera, laddove ci sono delle disponibilità, ma soprattutto in previsione purtroppo del periodo estivo, che comporterà, viste anche le previsioni che si stanno facendo, probabilmente un flusso maggiore rispetto a quello che abbiamo visto negli anni precedenti. Senta, prefetto Palomba, lei ci ha detto che il rischio è che le elezioni in qualche modo possano anche influire nelle scelte di alcuni amministratori locali, però ribaltando la situazione, ci sono anche sindaci, per esempio, di comuni dove non ci sono elezioni, che dicono però basta, perché dovremmo accogliere? Anche questa idea che si chiama dall'alto e si dice te ne arrivano 100, 150, 200, cioè un mancato coinvolgimento, la mente. Guardi, a livello territoriale le posso assicurare, anche dall'esperienza e personale e diciamo degli altri colleghi, che in genere quando arrivano disposizioni e direttive tutti i comuni vengono interessati, viene chiesta, non imposta, la disponibilità, perché uno dei problemi reali è che la ripartizione non viene fatta tra tanti comuni. Sì. Una piccola disponibilità da parte un po' di tutti gli enti locali consentirebbe di non far, ecco, la resistenza di alcuni comuni e di alcune realtà. Certo. Probabilmente c'è una sperequazione tra il comune, faccio un esempio, capoluogo, alcuni comuni, rispetto ad altri. E allora l'impegno e quindi il coinvolgimento anche dell'ANCI, giusto, che è stato fatto anche nell'ultimo periodo, è quello di ripartire equamente, secondo ovviamente le disponibilità, tenendo conto delle esigenze. Qui in Emilia abbiamo tenuto conto ovviamente del terremoto che aveva colpito alcune zone. Certo. Nei periodi estivi evitare ovviamente che si vada in strutture turistiche. È chiaro, lei dice, se ci fosse però una collaborazione di tutti sarebbe più facile. Per esempio, prefetto, io le voglio presentare il signor Carlo Montini. Buongiorno, signor Montini. Buongiorno. Lei è un albergatore a Bormio, una delle località più belle della Valtellina, quindi siamo in Lombardia, gestisce l'hotel Stella. E lei ha deciso, io li accolgo. Ne ha fatto anche una questione, lo ha detto in maniera, qualcuno dire un po' cinica, dire gli affari sono affari, Montini. No, diciamo che non è una questione di affari, sono affari. Per me si tratta di lavoro, perché e di sopravvivenza, se vogliamo anche dire. Perché affari non se ne fanno, non è questo un business da cui uno può ricavare, perché altrimenti lo farebbero tutti. Non vedo perché, se uno c'ha soldi facili. Magari per alcuni albergatori dicono non rovina l'immagine dell'albergo. Mi dica lei quante persone alloggiano da lei in questo momento? Adesso, ad oggi come oggi, sono 5. Sono previste 3 persone in arrivo oggi o domani, e poi dopo non si sa, perché anche la prefettura non sa mai quando, quando li mandano, quando arrivano da, da Milano. E chi, chi paga? Il, lo Stato, quindi la prefettura? Lo Stato, sì, diciamo, diciamo la prefettura e lo Stato, che poi sono fondi, fondi UE, nel senso dell'Unione Europea. Certo. Lei quanti soldi riceve per ogni migrante che... Allora, sono esattamente 35 euro a migrante. Da questi poi devo detrarre 2,50 euro a migrante al giorno, che devo dare io. Devi deve dare a loro per le sì. spese di sopravvivenza. Poi, sì, poi vabbè, tutti i beni di chiamiamoli così, per generali, per la pulizia, cioè shampoo, dentifrici, rasoi, tutte queste cose. E poi devo dare 15 euro di scheda telefonica al loro arrivo. Poi c'è una scheda telefonica di 15 una tantum, euro, certo. una tantum, sì, poi devo, devo pagare 10 euro per ogni 4 foto per che devono chiedere il permesso di soggiorno. Le foto segnaletiche. Vabbè, foto, mi scusi, scusi signor Montini, sì. ma alla fine lei dice sopravvivenza, ma quanto le rimane di questo? Avrà fatto, dei 5, fatto di questi 35 fatto, euro per migrante, quanti gli rimane? Ecco, se vengono, se, diciamo su una media di 30-40 migranti, mi restano dalle 2 ai 3 mila euro di puliti, ecco, detratte tutte le spese. 2-3 mila euro. Diciamo che comunque mi consente di lavorare, perché adesso, come adesso, sono vuoto, nel senso che anche... Dice, pur di stare vuoto, 2-3 mila euro fanno comodo di questi tempi. Insomma, quantomeno pago le spese e poi cioè, mi resta quel piccolo margine che mi permette anche... Qualche altra... dica la verità, qualche collega l'ha attaccata, l'ha criticata a dire... Ma diciamo personalmente no, cioè non è, a parte vabbè, le email che hanno fatto, che non ho neanche guardato perché non mi interessava molto. Io capisco la loro posizione, perché ognuno poi ha diritto di pensare come la vuole, ma li capisco, cioè non è che io li critico perché fanno questo. Loro hanno le loro esigenze, io ho le mie. Io quello che vorrei è che si cercasse di queste esigenze personali di ognuno che vengano convogliate in una cosa comune. Mi dica la verità, quanto ha inciso anche il discorso, se vuole, di accoglienza, il discorso umanitario nella sua logica? Ma questo devo dire, io ho seguito un po' anche l'esperienza che aveva fatto mio figlio 2 anni fa, quando aveva ancora l'albergo giù a Borgo Verezzi, che ne aveva accolti una trentina e li ha tenuti 4 mesi e si è trovato molto bene. Perché poi sono brave persone, nel senso che hanno bisogno, hanno sofferto quello che hanno sofferto. Quindi io la vedo forse in maniera diversa, proprio perché un po' ho partecipato a questa cosa. Sì. Abbiamo anche amici che gestiscono a Milano un centro di accoglienza molto, molto grande, e loro si prestano ben volentieri a questa iniziativa. A sostenere. No, ma certo, ma questa è la sua scelta, assolutamente. Carlo Montini, ricordo, albergatore sì. Di Bormio, gestisce l'Hotel Stella. Per concludere, vorrei tornare un attimo al prefetto Palomba. Prefetto, sa che molti, anche durante questa trasmissione, ci mandano via sms le classiche frasi, le ha viste anche lei, non so, gli attacchi a Gianni Morandi, gli attacchi, le critiche, e molti ci scrivono: portateli a Palazzo Chigi, portateli tutti al Viminale, gestiteveli voi, teneteveli a casa. Cosa rispondere da prefetto a questa rabbia popolare? L'esempio dell'albergatore è abbastanza chiaro. Noi stiamo vivendo, al di là diciamo dell'emergenza immigrazione, un'altra emergenza, che è quella della crisi economica, che riguarda sì. molti territori. Quindi è chiaro che diciamo, in questo momento l'opinione popolare in alcuni casi può anche essere quella che dare 35 euro, che poi ricomprendono, perché il sistema diciamo, dell'accoglienza è abbastanza, non è solo l'albergatore o il centro di accoglienza, eccetera. C'è tutta una rete che comporta anche la gestione dei centri, chiaro, o comunque dove stanno. Quindi lei pochino capisce la rabbia, però noi, non è... noi oggi stiamo vivendo tante di quelle emergenze sui territori. Ecco, io colgo l'occasione per dire, in un momento come questo i territori vanno rafforzati, come vanno rafforzate per esempio la cosa che ha fatto il Ministero, che andrebbe fatto ulteriormente, sì, sì. le commissioni territoriali per lo status di rifugiato, in modo da consentire, una volta avuto il permesso, di poter andare anche all'estero. Chiaro, e anche di poter una programmazione, e in questo momento purtroppo colgo l'occasione sì. che voi ci offrite si parla di riduzione dei presidi della sicurezza, prefetture, questure e comandi provinciali. E questo, diciamo, non aiuta per snellire anche le procedure. Io vi ringrazio, Carlo Montini, albergatore a Bormio, e il prefetto Claudio Palomba, il traffico. Lavoratori! Ecco, cari lavoratori, non è la nostra pernacchiona alla Alberto Sordi, è per voi, anzi è un modo per incentivarvi a scriverci alla nostra mail 24mattino@radio24.it per raccontare le vostre esperienze lavorative. Oggi voglio salutare Giuliano. Buongiorno Giuliano. Buongiorno, buongiorno Milan, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Giuliano Crotti ci ha scritto una mail dicendo: voi sapete che cos'è il paramotore? Io ovviamente non lo so, e ha detto lui, si è fatto la domanda e si è dato la risposta: è una figata pazzesca! Cos'è? Esatto. Sì, cos'è intanto il paramotore, Giuliano? Beh dai, allora diciamo che deriva già dalla parola. Vabbè, si può capire. In qualche modo il parapendio. È un qualcosa che già dà troppa adrenalina per i miei gusti, però... Si tratta di fatto di utilizzare un motore quale propulsione ausiliaria per un parapendio e svincolare così il pilota dal decollo dalla montagna, quindi si porta il parapendio in pianura di fatto. Tu sei un istruttore di paramotore. Esatto. Io questo faccio e sì, diciamo che abbiamo avviato insomma di recente una scuola alle porte di Milano, precisamente a Dovera, che è più o meno a 20 km insomma da Milano, e trattiamo tutte le specialità, tra le quali questa. Di recente abbiamo appena fatto un esame dove abbiamo brevettato 8 piloti. 8 piloti, beh, fantastico. Cioè, ma poi uno col ma paramotore è proprio una cosa di puro divertimento, no? Di adrenalina. Assolutamente sì, certo, non si può di sicuro valutarlo come mezzo di trasporto. No, questo... si tratta di un... non sarebbe male, c'è la coda in Liguria. Sì, esatto, prendete un bel paramotore. Esatto, per evitare... non sarebbe male. No, si tratta di un mezzo di fatto molto pratico, sta nel baule di un'auto. Ma infatti, cui... prova a descrivercelo. Poi ci ha mandato delle foto e sul portale, sì, che poi daremo si può vedere tutto. Sì. Cioè, esatto. Sta nel bagagliaio. Cos'è di fatto? Un motore? È un motore a due tempi con un'elica e un imbrago che si indossa a mo' di zainetto, e una vela da parapendio, quindi l'ingombro è veramente di 1 m3, insomma ci sta. Anche la vela, perché si ripiega tutta, è molto... Sì, assolutamente, sono 5 kg scarsi, insomma. Cioè, fammi capire, allora uno se la mette nel bagagliaio, poi trova un campo, che ne so, un campo disabitato, esatto, si ferma, dice, mi faccio un giro... Magari chiede il permesso al proprietario. Sì, chiaramente, dice, mi faccio un bel giro in paramotore, si parte da terra, perché c'è si parte da terra, si utilizza diciamo la tecnica di una piccola corsa che permette alla vela di gonfiarsi, sì, e di andare in portanza, quindi di consentire il sostentamento del pilota. I materiali e poi via. I materiali ultimamente hanno facilitato molto tutte queste operazioni, anche gli standard di sicurezza sono molto elevati e di fatto secondo me è uno scooter che vola, si potrebbe definire così. E vedi che serve evitare le code, vedi che, dovreste pensarci, no? C'è traffico intrangenziale e quindi tutti sti paramotori che passano. Secondo me traffico in tangenziale poi sarebbero altri problemi se ce ne fossero, però comunque tendenzialmente sì, assolutamente. Allora Giuliano, dai qualche coordinata, perché... Allora, le coordinate sono semplici: scuolaeuropeavolo.it è un blog che gestisco, dal quale insomma si possono attingere tutte le informazioni del caso, ma l'invito, approfitto di questa occasione per invitare anche tutti i radioascoltatori, soprattutto quelli vicini alla zona di Milano, di partecipare all'evento che si terrà il 15, 16 e 17 maggio, che sarà l'Alommania, che sarà un evento internazionale, parteciperanno diverse nazioni, e sarà un modo per vedere da vicino le evoluzioni di questi mezzi. Ma fantastico. Allora, www.scuolaeuropeavolo.it, tutto attaccato. Esatto. Poi, come al solito, se non l'avete capito bene, scrivete a noi 24mattino@radio24.it e vi metteremo in contatto con Giuliano Crotti, istruttore di paramotore. Grazie, alla prossima. Ci fermiamo qui, giustamente. Ecco, immaginatevi in paramotore così. Felice di stare qua giù. Ciao, a lunedì. Gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel giù degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.